con Alessandro Pastore di QMI Stardust per parlare del film Iris e Space Opera al cinema mercoledì 28 agosto 2019. Alessandro, ben trovato. Ben trovati anche a voi. Sì, Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? assolutamente. Direi che è un contenuto che si può raccontare veramente in poche parole, però è un'esperienza unica da vivere, perché è un contenuto che è stato realizzato da questo duo francese di musica elettronica chiamato Justice, proprio per il cinema. Quindi nasce con l'intento di essere un'esperienza da fruire in sala. Nasce per il cinema perché è una registrazione creata in set proprio per andare alla ricerca, diciamo, di un'esperienza musicale unica. Quindi in assenza totale di pubblico, in un ambiente che riproduce con chiari riferimenti di fantascienza, uno spazio assoluto, uno spazio buio nel quale i protagonisti diventeranno poi i giochi di luce che seguono i brani musicali. Si crea quindi un'esperienza immersiva decisamente da fruire nell'ambiente di una sala cinematografica. Di questo duo, cosa sappiamo? Beh, loro sono un duo francese che da anni opera nel settore della musica elettronica, che ha avuto un grande seguito anche in Italia e sta intercettando un pubblico di appassionati sempre crescente. Basti pensare che quando abbiamo annunciato che in anteprima mondiale, in contemporanea, in realtà il 28 di agosto ci sarebbe stato questo evento al cinema in Italia e in altri paesi, la pagina social dei Justice si è animata di un sacco di persone che si informavano su dove, in quali sale e come era possibile andare a vedere, proprio perché hanno un pubblico molto fedele, un pubblico che li segue fin dalle origini dei loro primi album. Consideriamo che sono da decenni che sono in attività. Ed è la prima volta che fanno un'esperienza di questo genere perché il loro modo di comporre musica o anche di creare esperienze e concerti è sempre quello di cercare l'interazione col pubblico. Quindi immaginiamo quei concerti in cui loro sono immersi nella folla, dove il pubblico reagisce e risponde a tutti i brani ballando, proprio scene di grande massa di folla. Per la prima volta invece qui loro hanno voluto fare un discorso che va proprio all'opposto, cioè andare all'essenza della musica, eliminando il pubblico e portando la musica all'interno del cinema con questo tipo di esperienza visiva. E se vogliamo, il grande riferimento può essere quello dei Pink Floyd. Ricordo un famoso concerto girato a Pompei, Live at Pompei, che per gli appassionati di musica è un evento culto, nel quale effettivamente i Pink Floyd si esibirono in assenza di pubblico, registrando tutto per non video. Dove avete incontrato questo film? Allora, questo contenuto, appunto, come la band stessa francese, l'abbiamo intercettato tramite un distributore francese che è Pathé, sul quale noi siamo in un rapporto già per avere nel corso degli anni portato in Italia altri contenuti che sono di proprietà appunto di distributori stranieri, quindi un distributore indipendente, e spesso la modalità con cui si realizzano dei contenuti alternativi al cinema nasce proprio in quest'ottica. Agenzie specializzate nel mondo della distribuzione, promozione e produzione di contenuti come QMI lavorano per portare quei contenuti che possono avere un livello di interesse per il mercato. Noi pensiamo che contenuto del genere abbia tasse di innovazione, di potenziale anche di audience interessanti, e l'abbiamo portato in Italia con la prospettiva proprio di raggiungere quel pubblico di appassionati di musica elettronica, ma anche di appassionati di esperienze uniche, perché ricordiamoci che è un'unica data al cinema oggi in un'anteprima in contemporanea mondiale. Quindi stasera sarà come in un unico concerto, diciamo, messo in onda contemporaneamente in più luoghi, possibile vivere questa esperienza unica. Di questa space opera cosa hai apprezzato in particolare? Beh, diciamo che ci sono due parti che caratterizzano questo contenuto che sono entrambe estremamente interessanti. Devo dire che nella visione in anteprima che abbiamo avuto chiaramente modo di fare nel selezionare questo contenuto, una parte estremamente interessante è l'intro di circa una ventina di minuti che racconta il backstage. È molto particolare il fatto che il contenuto si apra con tutta una narrazione molto interessante appunto di qual è la filosofia dietro al contenuto stesso che introduce e setta la scena. Questo è interessante perché vediamo i Justice che raccontano insieme a tutto lo staff tecnico, regista, direttore della fotografia, che realizzano pezzo dopo pezzo tutto l'allestimento e spiegano qual è la ragione per avere compiuto questa impresa, se vogliamo titanica, di realizzare una sorta di concerto senza pubblico in uno spazio creato su misura per loro. E nel vedere poi la seconda parte, che è invece il concerto stesso, chiaramente ritroviamo tutti quei riferimenti e capiamo il messaggio che volevano veicolare, che effettivamente arriva allo spettatore, che è quello di un'immersione assoluta nel suono, un'esperienza visiva e musicale veramente entusiasmante, e le due parti si completano e quindi effettivamente si esce poi da questa visione con la sensazione di aver visto qualcosa di mai sentito e visto prima. In quante sale? Diciamo che la distribuzione è cresciuta pezzo dopo pezzo. Inizialmente eravamo stati abbastanza prudenti nel rilasciare un contenuto del genere, considerando che potesse avere come tipo di pubblico di riferimento una nicchia, una numerica di appassionati nel mondo della musica elettronica, ma poi vedendo che le prenotazioni stavano andando decisamente bene e il tipo di interesse anche da parte degli esercenti delle sale di cinema nel distribuire un contenuto del genere, la risposta era buona, abbiamo allargato, quindi passando dall'iniziale idea di limitarci a una cinquantina di sale a oltre un centinaio di sale in Italia. Iris Space Opera al cinema mercoledì 28 agosto 2019 con QMI Stardust. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Pastore. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto.